25 novembre, seconda parte. Allora, i termini adesso commentiamo quanto tempo c'è. Una chiamata persa, Antonio, da Cosenza. Va bene, abbiamo tre quarti d'ora, direi io, poi basta, perché sennò veramente abbiamo detto fin troppo, una gomata. No, però sul linguaggio potremmo andare avanti, però da fare il linguaggio immagine bisogna fare, no, sennò poi non riesco a fare tutto il resto. Allora, finiamo su un'altra domanda. Allora, i termini li abbiamo, direi che li abbiamo... Le chiarite. Allora, abbiamo visto che, diciamo, adesso prendiamo il cognitivismo come un possibile rappresentante, insomma, delle posizioni universaliste. Allora, attenzione, i cognitivisti sono universalisti, ma loro non si considerano essenzialisti. Distinguiamo, perché sapete, non è la stessa cosa. Il mio dubbio è che alla fine le due cose non possano essere separate, e che ogni universalista, anche se pensa di non essere essenzialista, finisce per esserlo. Però come loro pensano che ogni relativista sia un faccione, insomma, quindi vuole dire troppo per me, che io dico le cose che penso io, non posso creare le cose che penso. Già oggi vi ho letto il testo di... Allora, le due posizioni sono diverse. Cioè, i due concetti, almeno in partenza, sono, diciamo, diversi. L'universalismo afferma che, sostiene, insomma, che ci sono delle regolarità, che c'è un livello più profondo, che non è necessariamente classificabile o descrivibile o come sostanza o come essenza, però è comunque un livello profondo, c'è una regolarità profonda secondo cui un certo aggregato di fenomeni, che siano l'universo dal punto di vista fisico, che sia una specie animale, una famiglia animale o una particolare specie come la specie umana, in ognuno di questi ambiti si possono enunciare delle proposizioni generali che esprimono il funzionamento di questo sistema a prescindere da tutte le possibili varianti locali. Quindi esistono leggi universali, insomma. Questa posizione è vecchissima, non è, diciamo, risale più che a Parmenide, che non aveva risalito bene, a Platone è il primo che l'ha espressa nel modo più chiaro, e poi successivamente nella filosofia medievale agli appunto universalisti della scolastica medievale, Sant'Anselmo, Sant'Alberto Magno e Santo Tommaso d'Aquino. Questa era la posizione. In realtà ci sono sempre state, sino dall'antichità, posizioni, diciamo, relativiste, che sono sempre state minoritarie, sempre. Nella filosofia antica erano parzialmente i sofisti, o almeno una parte dei sofisti, i più attenti tra loro, per esempio Protagora, uno dei pochi che è rimasto qualche cosa, peraltro, che sono quelli contro cui combatté Socrate, anche se comunque Socrate era uno di loro, che però Socrate sosteneva tesi di tipo universalista, e poi il suo principale discepolo Platone. Quindi, allora, i sofisti, alcuni erano sofisti, poi gli scettici, soprattutto gli scettici, sono stati i primi che hanno enunciato delle tesi più rigorose universaliste. E non a caso è stata la matematica una delle loro bestie nere, una delle opere più importanti di Sesto Empirico, che è un seguace di Pirrone, che era il capostipite di Sesto, che si chiama appunto Adversus Mathematicos, contro i matematici, perché la matematica era la rappresentante maggiore di quella corrente, di quella tendenza, diciamo, universalista. Che cosa afferma di diverso l'essenzialista? L'essenzialista, allora, poi è ovvio che le due cose spesso sono, però in linea di principio non sono esattamente la stessa cosa. L'essenzialista afferma che, allora, vediamo prima come si potrebbe in linea di teoria essere universalisti senza essere essenzialisti, perché ripeto che probabilmente il cognitivismo è una teoria filosofico-scientifica che è dichiaratamente universalista, ma non si considera essenzialista. Il fatto che poi non lo sia davvero è un altro discorso. Allora, come si potrebbe essere universalisti senza essere essenzialisti? Si potrebbe essere universalisti e non essenzialisti affermando che esistono delle leggi universali, quindi delle proposizioni che descrivono comportamenti diciamo regolari, che si ripetono sempre uguali indipendentemente dalle varianti di questi degli ambiti fenomenici presi in esame, ma queste regolarità potrebbero anche non essere collegate tra loro, cioè potrebbero, secondo l'universalista non essenzialista, potrebbero essere slegate le une dalle altre. Per esempio, slegate, potrebbero, forse non ho detto bene, perché in realtà è un po' difficile che l'universalista pensi che sia qualcosa di slegato. Il modo in cui i diversi livelli di regolarità sono legati non è quello, non è a sua volta universalizzabile, ecco, mettiamola così. Ci può essere una variante dell'universalismo che potrebbe considerare non universalmente valido il legame tra i diversi livelli di universalità. Esempio, l'universalista penserà che ci sono delle leggi della materia vivente di tipo biologico che spieghino il funzionamento del cervello. Suppone che ci siano delle leggi che regolano il funzionamento della base dei prodotti culturali, la componente universale di tutto ciò che è comune a tutte le culture, a tutti i linguaggi, eccetera. Per esempio la grammatica universale di Chomsky nel caso della, diciamo, linguistica. Però un universalista non essenzialista è disposto ad ammettere che ci potrebbero essere differenti legami, che possano essere variabili col tempo, insomma, i legami tra il livello di universalità della mente e il livello di universalità della materia vivente, per esempio della biologia. L'essenzialista no. L'essenzialista è convinto che esista qualcosa chiamata l'essenza o la sostanza di un fenomeno, substanzia, ciò che sta sotto, substance, anche in inglese rimane, sub, under sarebbe in inglese. È curioso come gli inglesi dicono il verbo capire, il verbo comprendere. Nelle lingue che derivano dal latino, capire è abbracciare, è una concezione, come dire, spaziale, spazialista della conoscenza. Capire vuol dire essere contenitori, comprendere vuol dire comprendo, prendo insieme, abbraccio. Invece per gli inglesi comprendere è understand. È understand, è stare, stand, ma under. Va bene, la registro, ma poi dopo negherò di averla detta. In una concezione, se avessimo una concezione essenzialista del linguaggio, diremmo che l'inglese è una lingua essenzialista, per come è una lingua sostanzialista, perché dice che la comprensione è stare ad un livello più basso, stare sotto, vuol dire che sotto c'è, che nel profondo, che in deep, c'è la deep structure, come dice Chomsky, c'è la struttura profonda, nel profondo c'è la verità, c'è la, no? E quindi si capiscono le cose soltanto se siamo a questo livello. Ovviamente questa sarebbe una stupidaggine, ovviamente, perché non esiste nessuna, le scuole filosofiche inglesi della modernità si caratterizzano in gran parte per il loro radicale empirismo e per una certa riluttanza all'essenzialismo, non all'universalismo. Sia Locke che Hume, che più tardi i filosofi analitici, Bertrand Russell, eccetera, eccetera, sono tutti dei rigorosi universalisti, ma effettivamente non sono essenzialisti quanto all'ontologia. Sono, diciamo che forse potremmo dire così, che ci può essere un universalismo ontologico che coincide con l'essenzialismo. Se io affermo l'esistenza di universali a livello dell'ontologia, a livello dell'essere, vuol dire che l'essere è ordinato in cose che sono immutabili, che non cambiano mai, che sono le essenze, che sono le idee platoniche, le idee platoniche. E ci può essere invece un universalismo, chiamiamolo epistemologico o linguistico, che non è necessariamente un essenzialismo. In realtà la mia congettura è che l'esistenzialista epistemologico, l'universalista epistemologico subisce una forte pressione verso l'esistenzialismo, l'universalismo ontologico. Ho letto questo pezzo sull'esistenzialismo, mi è rimasto l'esistenzialismo. Sull'universalismo ontologico. È difficile resistere alla pressione. E questo perché? Perché un universalista, anche questo non è detto, ma un universalista epistemologico avrà sempre tendenzialmente una concezione della conoscenza come rispecchiamento del mondo, come rispecchiamento del, diciamo, reale. Che cos'è conoscere, diceva San Tommaso? Conoscere è adequatio intellectus et rei. La conoscenza è un adeguamento dell'intelletto e della cosa. Si conosce quando il nostro intelletto riesce a aderire alla cosa. Le cose esistono al di fuori di noi, sono già belle fatte, sono già belle e che formate. Conoscere non vuol dire nient'altro che essere capaci di cogliere come sono fatte davvero le cose. Capite che è una... di per sé non implica l'essenzialismo questa, però ci arriva, perché se io mi dico, vabbè, ok, allora conoscere è adeguato, ma come avere questa adeguazione, questo adeguamento, questa, Cioè, se tutti fossero, allora tutti quanti conosceremmo tutto, quindi vuol dire che le cose ci possono trarre un po' in inganno, se no tutti conosceremo, sarebbe facile conoscere tutto, no? No, se per conoscere ci vuole un po' di fatica, vuol dire che questa res, questa cosa, presenta una superficie fatta in un modo, e un interno, e una struttura profonda fatto in un altro, e l'adeguazione dell'intelletto 3 e l'intelletto capisce quando arriva a questo secondo livello, e quindi in qualche modo questo presuppone che ci sia qualcosa chiamata essenza, qualche cosa chiamata quindi in linea di principio l'universalismo può riguardare l'epistemologia, cioè la conoscenza, e non l'ontologia, cioè l'essere, ma in pratica è difficile che si tengano così ben separate queste due cose. È difficile che si possa essere universalisti nella conoscenza e relativisti nell'ontologia. È difficile. Ora, a quali difficoltà va incontro l'universalista? C'ha un bel dire Marconi che non è vero che gli eschimesi 400 termini, poi non ha mai detto nessuno, so. Ecco, 15-20 termini, forse sono troppi, va bene, ne hanno solo due, va bene, non importa. Le singole cose che dice possono anche essere vere. È vero però che le lingue non sono totalmente traducibili le une nelle altre. Ed è vero che nella, diciamo, linguistica 57, 2007 sono 50 anni. 50 e passa anni di ricerca chomskiana e di interi. La linguistica fra la fine degli anni 50 e i primi 60 è diventata chomskiana quasi interamente. Quando io mi sono laureato nel 62 ho fatto una tesi su Chomsky, ero chomskiano anch'io, perché non c'era altro da fare che essere chomskiani, no? c'era solo quello, qualsiasi altra teoria era, diciamo, screditata, era una pressione fortissima. Poi io non ho fatto ricerca scientifica sul campo linguistico, ma all'epoca comunque ero uno studente non di linguistica ma di matematica, quindi ero in un altro campo, però insomma quattrini, centinaia di ricercatori, libri di linguistica, trovare un libro di linguistica che non sia chomskiano oggi è come cercare un ago in un pagliaio, sono tutti quanti chomskiani. Bene, nonostante 50 anni di, diciamo, ricerche, sta grammatica universale non è stata fuori. Chomsky ha enunciato tre regole o due regole e mezzo della grammatica universale. E per fortuna qualche critico ha avuto buon gioco a far notare che sono delle intelligenti e ingegnosissime generalizzazioni dell'inglese. Diciamo pure delle lingue indo-europee, che è una famiglia di lingue molto diffusa nel mondo, ma non è l'unica, famiglia linguistica. Ci sono altre lingue in cui quella regola lì non può funzionare, non può essere non può essere un pezzo di una grammatica universale, perché le altre. È la stessa cosa per quanto riguarda, diciamo, l'antropologia. Le strutture elementari della parentela di Levi-Strauss è un libro ingegnosissimo, bellissimo, affascinante da leggere, un po' noiosetto a volte, ma va bene, non importa, sì, perché poi invece lui dopo ha scritto libri molto, molto divertenti, ma quello è il suo libro più noioso che ci sia. Però affascinante comunque, dice, cazzo, questo si mette lì delle robe così diverse, quello che deve sposare la figlia della cugina, della zia, della nipote, nel caso che si trovi nella tribù A e l'altro nella sua tribù B, mentre si trova nella sua tribù C e l'altro si trova nel sottoinsieme K della tribù S, allora deve sposare, dopo aver fatto due anni di nubilato, deve sposare invece allora l'ex marito della figlia del complicato anche quello. E lui con una magia meravigliosa dice, ma dietro sono cose di più semplice, cioè non è così complicato, non sono così diverse, cioè, dietro e arriva poi di fatto, ciao cari, di fatto è il tabù dell'incesto che poi su cui poi si arriva, insomma. Costruzione terribilmente artificiosa, bellissima nei passaggi e nei modi che, in cui si fa quando lui tenta di ridurre o di associare un mito di una popolazione a un mito di una popolazione, a spiegare come in realtà quelle due storie così diverse, è come quando io, una delle esperienze più belle che ho fatto, sono essere i libri di Dumézil sui miti europei, Dumézil è un altro strutturalista. Ma si può essere strutturalisti e scrivere benissimo e fare delle cose affascinanti e fare delle cose molto utili poi, certo, per esempio Dumézil, la grande cosa di Dumézil è riuscire a, Dumézil intravide, scoprì dietro tutti i miti europei, quelli greci, quelli germanici, quelli degli osseti, quelli indù, quelli, Mahabharata, ha fatto un'analisi del Mahabharata, che è il più lungo poema epico con tutta una storia, che è quello che fonda la civiltà indiana, e dietro lui dice, guarda, dietro a tutto questo non c'è altro che la tripartizione funzionale dei popoli indoeuropei. Ci sono tre classi, tre gruppi sociali in tutti i popoli indoeuropei, che sono i potenti, cioè quelli della cerchia intorno al re, insomma, che esercitano il potere, che è insieme magico religioso, sì, sono insieme, insomma, magia, diciamo, religione e potere politico, gestione politica delle cose. Poi c'è il gruppo dei guerrieri, i Ksatriya in India, quello è un gruppo limitato, eccetera, ma con una sua storia, che sono quelli che specializzati fanno la guerra, le armi, eccetera, eccetera. E poi il gruppo numericamente più consistente, che è quello di quelli che lavorano la terra, o degli artigiani, insomma, diciamo i lavoratori. Non ci voleva tanto, perché le stesse robe le dice Platone nella Repubblica, sono esattamente la tripartizione che fa Platone nella Repubblica. Però va bene, bravo lo stesso, perché non è che sia. Lui dice, guardate che in tutti i miti europei c'è sempre o prima o dopo, e questo è vero, non è che sia una palla, insomma. Si racconta sempre o all'inizio o poco dopo l'inizio la storia di due gruppi di dei che si combattono. Nella mitologia greca è così, greco-romana, insomma, così, forse anche quella etrusca, nella mitologia germanica è quella, nel Mahabharata c'è questo, sono i Pandava contro l'altra famiglia, non sono più dei, insomma, è sempre così. Cioè, e in almeno uno dei due campi voi, dice Dumézil, trovate quasi sempre qualche traccia che non è un campo unico, ma è la confluenza di due campi. Ecco come, per Dumézil, la tripartizione originaria, funzionale, eccetera, eccetera, ha dato luogo a questa struttura binaria del mito, perché di questi gruppi sociali due si alleano contro il terzo. Quasi sempre sono ovviamente i re, i potenti o i sacerdoti e i guerrieri che si allenano contro i contadini, ma a volte sono i contadini che si allenano contro gli altri, quindi c'è questa. E la cosa è bellissimo scoprire, vedere, cioè, guarda, non è che nego che ci sia, non è che dico che bisogna stare a sempre alla superiore, va bene anche andare al fondo, anche andare a vedere. Però la riserva mentale o l'indagine critica sul fatto che se hai visto davvero giusto, cioè se poi tutti i miti sono davvero riducibili o non c'è, certo, quando alla fine dell'Ottocento, alla metà dell'Ottocento forse, si scoprono finalmente qui, diciamo, si vengono trascritti i miti di questi osseti, che erano una popolazione che stava in mezzo al Caucaso, isolata da tutti, eccetera, quindi, e che hanno singolarmente mantenuto, diciamo, si sono contaminati poco con gli altri, cioè quello vorrebbe fare Bossi con i padani, insomma, l'idea, questa folla, no? Ma lì perché c'erano montagne alte 4.000 metri, cazzo, è ovvio che era un po' difficile passare. Quindi questi qui si raccontavano, si sono andate le stesse cose per secoli, quindi i miti degli osseti rappresentavano casualmente una versione molto molto, come dire, vicina a uno stadio molto antico dei miti europei, una popolazione indoeuropea di lingua indoeuropea, e quindi lui le ha volute, diciamo, studiare così. Poi scopre che sono dei analoghi a quelli della mitologia germanica, eccetera, eccetera. Quindi il lavoro che Dumézil aveva già fatto per il Mahabharata e per la comparazione tra i miti greci e quelli germanici antichi, vuol dire sia scandinavi, perché sono la linea e non sono simili, sia quelli scandinavi che quelli, diciamo, tedeschi, antico tedeschi, prima che arrivasse il cristianesimo. Il cristianesimo è arrivato in Norvegia dopo, e quindi per questo che Ledda, sia Ledda poetica che Ledda di Snorri, mantengono una versione più arcaica degli stessi miti di quella che invece hanno i Nibelungenlied, che viene esteso, viene scritto verso il XI secolo, è più moderno dell'Edda di Snorri, che è del XIII secolo in Scandinavia. Quindi ho perso il filo. C'era una cosa a cui volevo arrivare, ma veramente non, se no vi faccio preparare le sorpresine, vabbè ragazzi, così è, cioè, la memoria a breve termine delle persone anziane è fottuta. Sì, cazzo, proprio non mi ricordo quello che stavo pensando 3 minuti fa, questo è già più grave. Comunque salterà fuori adesso, quando poi salta fuori si piglia, perché tornano per i cazzi loro, poi è merda, quando si fanno qualcosa. Stiamo parlando delle mitologie che nascono dalla fusione dei due gruppi. La traduzione funzionale, la codice, vabbè, insomma, dicevo appunto che il succo è che tutte queste ipotesi, ipotesi universaliste o strutturaliste, danno luogo a delle narrazioni, delle ipotesi che sono ovviamente affascinanti, che danno e che illuminano sicuramente dei fatti utili da capire, perché fanno vedere analogie che magari noi non eravamo stati in grado di vedere. Però il loro limite sta in questo, cioè sta nel fatto che in realtà fanno sempre il passo più lungo della gamba. Cioè pretendono sempre, e comunque, ecco questo volevo dire. Allora, le ipotesi di Dumézil in realtà non sono poi così, cioè non sono ugualmente, non sono comparabili con quelle di Strauss, eccetera. Perché? Perché comunque, Dumézil era un filologo e uno storico della religione. La sua ipotesi, lui non l'ha mai voluto ricavare da tutti i suoi studi l'esistenza di strutture del mito universale. Ha detto: i miti indo-europei sono fatti così. La cosa è plausibile. Se gli indo-europei, se tutte le popolazioni che parlano lingue indo-europee, sono pari delle poste di cacciare, che sono stupide, però linguisticamente è vero, c'è una famiglia indo-europea e quindi ci sono un tot di lingue nel mondo che hanno delle affinità strutturali, sono molto simili tra loro, sostanzialmente sono alcune lingue, indiane, l'Hindi e alcune altre poche, non tutta l'India parla lingue indoeuropee, l'Urdu è una lingua totalmente diversa, è un altro, però una parte di quella. Tutte le lingue slave, le lingue germaniche, il latino e le lingue neolatine, e basta, e il greco, che non ha avuto, eredi in pratica. Si è solo trasformato dal greco antico una famiglia totalmente diversa. Le grandi famiglie sono 6 o 7, non sono mica poche, quindi, e in Europa ci sono alcune lingue che non sono indoeuropee: finlandese, ungherese, turco, semmai la Turchia entrerà nell'Europa, e vasco. queste lingue sicuramente, sì, queste lì no, perché il celtico è europeo, quindi anche l'irlandese. Ah sì, l'irlandese rappresenta una un'altra famiglia a parte, sempre di lingue indo-europee. Ma l'islandese? L'islandese è una lingua germanica, viene da lì. La lingua germanica comprende tedesco, antico, medio, alto e nuovo, tedesco, quello che si parla adesso, norvegese, svedese, che sono lingue molto simili, non il finlandese, che è una lingua non indo-europea, l'islandese e l'inglese. L'inglese è una lingua germanica con una particolarità, che è quella che lo rende così meno difficile per noi, che ha una influenza indiretta del latino fortissimo, molto più forte del tedesco. Quindi ha circa una metà del proprio lessico di parole che derivano dal latino. Ma per il resto, e ha una grammatica che si è semplificata dal punto di vista delle regole strutturali moltissimo col tempo, al contrario del tedesco che l'ha mantenuta rigida, non proprio come quelle slave che sono le più difficili e le più complicate, ma molto fortemente, per una serie di motivi. Nell'inglese le parole non derivano direttamente dal latino, quindi non è, ma dal francese, deriva dal fatto che la Francia ha esercitato per un breve periodo un'influenza anche militare e per un gruppo di un'influenza culturale molto forte. Se ancora leggete, quando guardate, leggete l'Enrico V di Shakespeare, e a un certo punto c'è una scena in cui la principessa impara il francese, la principessa che deve impara il francese buffissimo per avere le parole, okay? Quindi certamente l'Enrico V parla di prima, no? Però già diciamo, all'epoca di Shakespeare era comunque ancora riconosciuto, era già finita, stava finendo. E questo è quello che rende, diciamo, una delle ragioni che rende l'inglese più facilmente, si può imparare un po' più facilmente, per esempio per noi che parliamo lingue neolatine, quindi inglesi, quindi francesi, spagnoli, italiani. Queste sono le lingue europee. Allora, l'ipotesi di Dumézil, stiamo parlando di questo, se dovete scrivere, perché se no non si chiama così. Ha scritto in francese, ma era di origine, cazzo non mi ricordo di origine, era lituano, una volta strana, lituano, però non sono sicuro. Giorgio Mesil. Allora, le ipotesi di Mesil non sono delle vere ipotesi universaliste. Mesil non ha mai detto che c'era una struttura del mito tale. Ha detto i miti indo-europei sono collegati con una ipotesi, e questo può essere plausibile, ripeto, perché tutte le popolazioni che parlano indo-europeo, fino a non molto tempo fa, fino a 1000 anni prima di Cristo circa, erano probabilmente piccoli gruppi che stavano addirittura probabilmente al di là dell'Himalaya, cioè nelle steppe della quella che oggi è la Cina meridionale o l'Afghanistan, forse, una roba così. Hanno indicato una lingua europea importantissima, è il persiano. Il persiano è una lingua europea. Non mi dite ad un persiano che è arabo, perché si incassa come una biscia, giustamente. Sono islamici di religione, ma come lingua e come tradizioni culturali sono un'altra cosa, sono solo indoeuropei. Quindi le grandi guerre persiane, ma probabilmente anche la guerra di Troia, venne fatta contro popolazioni indoeuropee, cioè tra popolazioni europee, i greci dell'epoca micenea, e una popolazione che stava lì che probabilmente era europea, perché sennò perché c'avevano troppe cose comuni, anche come, certo che poi Omero può aver barato, certo, o comunque la tradizione orale greca, però era. Queste popolazioni stavano tutte lì, erano probabilmente poche migliaia, di persone, popolazioni nomadi che stavano lì. Poi a un certo punto intorno forse nel 1200, prima perché i cosi sono già indoeuropei, i micenei sono già indoeuropei, ci sono diverse ondate, cioè per la Grecia, io lo so meglio per la Grecia ovviamente, perché comunque nella Grecia ci sono due successive ondate però di invasioni, di gente che viene dal nord. I cretesi non erano indoeuropei, quindi 2000 anni prima di Cristo di indo-europei nel Mediterraneo non ce n'erano, molto, molto veramente. I primi arrivano, la prima ondata è micenea, e quindi sono, siamo nel 1400-1200 a.C. Poi c'è il crollo dell'attività eccetera, poi c'è il crollo dell'attività micenea, ci sono un paio di secoli di buio in cui non si sa cosa cazzo succede, il cosiddetto, insomma, l'epoca buia greca, in cui ci sono anche pochi documenti, cioè i greci scrivevano già, c'è una scrittura micenea che è stata decifrata, che è il cosiddetto lineare B, che si dimenticano col crollo della Cristianità, poi arriva una nuova ondata di popoli che sono i popoli, sono i Dori, quelli che in epoca storica si erano chiamati Dori, quindi quelli, diciamo, che abitavano il Peloponneso, Sparta, eccetera, eccetera, che però arrivano diciamo, dall'esterno e vincono, sbagliano le popolazioni precedenti perché hanno il ferro. Ai tempi della guerra di Troia il ferro non c'è, le spade sono tutte di bronzo. Il che vuol dire che duravano sì o no un paio di duelli, al secondo duello erano già ammaccate, però insomma c'è. Questi qui arrivano, quindi ci sono dei metalli, la gente sono dei metalli, arrivano questi qui che hanno il ferro, sono popolazioni del nord, parlano una lingua diversa. Nel giro di pochissimi secoli, cioè verso il X secolo c'è questa invasione, del secolo avanti Cristo c'è questa invasione dal nord, e già nel VII secolo c'è diciamo, l'anteprima di quella che sarà la civiltà classica greca, insomma, che poi sarà nel suo periodo di massimo splendore nel V secolo, ma già nel VII secolo si è vista l'arte. E nel VII secolo adottano la scrittura dei Fenici adattandola e creano l'alfabeto, e, insomma, cambiano una serie di cose e parlano una lingua che è sono diverse reti, ma è sostanzialmente unitaria, è una lingua indoeuropea, il greco antico, suddivisa in dialetti abbastanza differenti, dorico, ionico, eolico. La lingua che si parlava a Sparta non era esattamente quella che si parlava ad Atene, ma d'altra parte anche oggi se mettete insieme un sardo che parla una lingua diversa, ma un contadino siciliano e uno bergamasco, non si capiscono, io non capisco nessuno dei due, ma loro fra di loro non si capiscono, quindi era del tutto normale che anche tra Atene, però c'era la lingua, era comunque specialmente nella scrittura, ma anche nella lingua parlata, poi si capiva. Bene, è possibile che tutto questo insieme di persone, questo insieme quindi di culture che in epoca storica sono già diversificatissime, c'è già l'impero persiano, ballerino, che è una cultura totalmente diversa contro cui i greci combattono, fanno lotta, l'impero persiano culturalmente sta dalla parte dei grandi imperi del Medio Oriente, la Grecia, però linguisticamente sono affini, quindi hanno una radice culturale, quindi l'idea di Jumezil di ricostruire una sorta di diciamo struttura o di invarianti, di costanti nelle culture indo-europee, mi pare una cosa plausibile che non ha nulla e non c'entra nulla con le ipotesi universaliste che invece dicono. È la stessa cosa è per esempio per l'origine del linguaggio. Una serie di linguisti sono convinti, in questo caso l'adesione della comunità scientifica dei linguisti non è così diciamo plebiscitaria o quasi come nel caso della grammatica generale di Chomsky, ma è comunque ampia. Una serie di linguisti sono convinti comunque che il racconto della Bibbia della Torre di Babele abbia un fondamento, cioè che tutte le lingue umane derivino da un'unica lingua. In realtà c'è un'altra parte linguistica che non è convinta di questo e che è convinta, anch'io sono convinto della tesi opposta, che non ci sia una lingua unica. È ovvio che l'eventuale esistenza di una proto-lingua unica, cioè che se le lingue, se la tra le lingue si sono davvero lo sviluppo poi diversificato nel corso delle centinaia di migliaia di anni, decine di migliaia di anni di un tempo unico, le ipotesi universaliste hanno qualche chance in più, evidentemente, perché vuol dire se c'è una lingua unica, eccetera. Io credo che sia improbabile che ci fosse questa lingua unica, perché è storicamente vero che la specie Homo sapiens sapiens 300.000 anni fa non c'era, forse. 200.000 anni fa c'era, ma stava concentrata quasi tutta in un posto solo, l'attuale Kenya, Tanzania, posti del genere, e soltanto meno di 100.000 anni fa cominciò la migrazione di questa popolazione, che quindi era nera, sicuramente, sicuramente nera, bassotta, eccetera, quindi nulla di simile a... ha cominciato così, che in meno di questa migrazione dura parecchie decine di migliaia di anni, perché alcune delle popolazioni, adesso non so bene, ma nel, per esempio nel Nord America o in Australia o in Polinesia arrivano non prima di 30 o 40 mila anni fa, quindi pochissimo insomma. Questa specie sicuramente parlava, è quasi sicuro, è sicuro no, ma è possibile che questa, che tutta la popolazione umana, quando Homo sapiens sapiens stava tutto, quelle poche migliaia di persone, poche decine di migliaia di persone che erano, se c'erano, in quella zona ristretta, parlassero un'unica lingua. È possibile. Però è anche possibile di no. È anche possibile che quelle che stavano nella vallata dello Zambesi parlassero diversi da quelli che stavano in Etiopia, perché non è detto, cioè bastano, cioè no, ovviamente insomma, capite bene che non c'era nessun mezzo di comunicazione allora tranne i pelibus, quindi non c'era altro da fare, e quindi anche piccole distanze, se le distanze erano, diciamo, isolavano culturalmente i gruppi, non c'era agricoltura, non c'era commercio, probabilmente non c'erano scambi, era una pura economia di sussistenza, caccia e diciamo raccolta. In queste condizioni i gruppi umani stanno isolati, quindi è possibile che già loro, ma se anche per una strana ipotesi questi parlavano un'unica lingua, nel momento in cui ti distacchi, bastano poche migliaia di anni di isolamento, diciamo, recente. Pensate, adesso dico una puttanata, insomma, c'è qualche svizzero italiano tra voi? No, però come si dice, avete mai parlato con degli svizzeri italiani? Allora, sapete bene che certamente parlano una lingua molto simile, però non è esattamente la nostra stessa lingua, a parte il marcato accento comasco che hanno, ma stanno lì, va bene, insomma. Il lessico, hanno tutta una serie di parole, e sono tante, che sono o italiano dell'Ottocento, o neologismi che si sono sviluppati dopo per la pressione del francese e del tedesco, e abitano a due passi, non c'è nessun confine fisico imponente, tipo montagne che ci separi, c'è il lago di Lugano, no? si arriva, è solo un confine politico, quindi, eppure, pensate, se voi sentite il francese che parlano i canadesi francofoni, quelli del Quebec, parlano francese diversissimo, le parole in larga misura diverse, perché? Perché sono stati separati nel 500, e non stavano come stati cinesi attaccati a noi, ma all'età, per cui in pratica da lì le due lingue erano la stessa lingua. I francesi che arrivarono nel Quebec ovviamente parlavano lo stesso francese che parlava in Francia. Poi l'evoluzione successiva, a partire da lì c'era da un'altra evoluzione, altre condizioni ambientali, altre pressioni culturali di altri gruppi linguistici, gli indiani, le tribù indiane che avete notato, gli inglesi, eccetera, eccetera, gli inglesi in maniera diversa, anche l'inglese d'America, perché l'inglese d'America è comunque diverso dall'inglese inglese, ma perché lo è meno? Perché l'inglese, diciamo, d'America è perché sia l'inglese d'America che l'inglese di Inghilterra hanno subito fortissime pressioni linguistiche di altri gruppi, quindi al mutamento linguistico, gli americani perché c'era il melting pot e perché si sono trovati emigrati di tutte le lingue, eccetera, per cui l'inglese d'America ha assorbito molto, e l'inglese d'Inghilterra perché c'era l'impero, e quindi con l'impero inglese, anche l'inglese d'Inghilterra è stato, quindi la differenza che c'è tra l'inglese che si parlava ai tempi di Shakespeare e l'inglese che si parla oggi è molto maggiore di quella che c'è tra l'italiano di Dante e quello che noi parliamo oggi, e Dante è 4 secoli prima di Shakespeare. Ma il 90% del vocabolario italiano si trova già dentro la Divina Commedia o nelle opere di Dante, poi certo c'è una situazione sintattica diversa, eccetera, uno capisco poco, ma comunque con un po' di sforzo chiunque si mette lì là la Divina Commedia. Leggere Shakespeare, so cazzi ragazzi, non sono cazzi solo per noi, che non sono inglese. Insomma, ci ho provato una volta, ho letto meno di metà dell'Amleto, è faticosino, perché non si capisce, non guardi le note, non capisci nulla. Ma per un inglese di oggi è difficile, è più difficile, è una lingua più, diciamo, lontana. Non parliamo del tedesco, non parliamo della differenza tra l'antico alto tedesco, il medio alto tedesco, il nuovo alto tedesco e tutte queste cose qua. Come è andato il vostro ambiente? Così, eh? Poteva fare di più, però non ha fatto di più. Allora, non sono arrivato alla fine, allora rapidissimamente, perché sennò vivi. Allora, qual è tutto l'inghippo? Secondo me, tutto quanto l'inghippo sta in questa cosa, sta in questa... in questa parolina che, come avete visto, gli è scappata dalla penna a Diego Marconi, perché ha dovuto ammettere che sono le capacità, che è la questione della capacità. Ora, capacità, che cosa significa capacità? Capacità vuol dire essere aperto, cioè, vuol dire essere in grado di fare, dice, tu hai la capacità, per esempio capacità di linguaggio, è indubbio che il linguaggio sia una capacità, cazzo, ovvio che è una capacità. Noi abbiamo la capacità di parlare, abbiamo la capacità di linguaggio. Capacità significa quindi che il bambino nasca dove nasca, lo metti dentro una comunità linguistica, impara quella lingua. L'ipotesi di Chomsky è parla quella lingua perché lui ha la grammatica universale innata, che è aperta a tutte le varie possibilità, e ci vuole una lingua specifica o più lingue, può anche essere bilingue, trilingue, diciamo, una qualche lingua specifica deve farti scattare questo meccanismo per cui tu impari questa cosa, ma dietro c'è la grammatica universale. Ed è questa la ragione per cui tu parli. In realtà, tra il riconoscere che c'è la capacità di fare qualcosa e l'arrivare a una struttura descrivibile come la cosiddetta natura umana o la grammatica, l'equivalente linguistico è la grammatica universale di Chomsky, c'è un salto logico, qua c'è un salto logico, non c'è una barriera netta, potrebbe essere che una capacità sia descrivibile come una grammatica, come una natura, ma non è automatico, non è che necessariamente avere un insieme di capacità vuol dire avere un insieme di regole. Una capacità è qualcosa di molto più indefinito, certo è indefinito, e cioè nessuno mi può, io non sono in competizione con il signor Joseph Ratzinger, attualmente chiamato Benedetto XVI, perché sostengo che la natura umana non è quella che dice lui, ma è un'altra. Sono in competizione o in... come si può dire? Sono buono, non sono cattivo, quindi non gli voglio fare del male. Però sono in divergenza, divergo dalle opinioni di Ratzinger, perché sostengo che non ci sia questa natura umana, che non sia descrivibile, che non si possano elencare, che l'uomo è fatto così, A, B, C, D. L'uomo è, l'uomo è di per sé buono, oppure l'uomo è di per sé cattivo, oppure l'uomo di per sé non è un cazzo, l'uomo di per sé non è niente. Come non è niente la vita, come non è. L'unica cosa che posso dire sicuramente è dare una descrizione della sua biologia, certo, e della sua anatomia e della sua fisiologia. Ma su questa fisiologia si innesta, e qui sta il punto, una particolare macchina biologica, una parte particolare del corpo dell'essere umano, che è il cervello, più sviluppato in assoluto dal punto di vista non solo della capacità cranica, ma della complessità strutturale interna che abbiano i mammiferi sviluppati sulla Terra. Non c'è un organo così complesso, nessun altro animale ha un organo così complesso come il nostro. E quindi un organo così complesso, l'idea della potenzialità, cioè della capacità, fa un salto rispetto alla usuale potenzialità, all'usuale capacità che hanno tutte le altre specie viventi su questo, come dire, pianeta. Allora, mi rendo conto che dietro questo discorso c'è un rischio, e cioè che si rientri dalla finestra l'antropocentrismo che abbiamo cacciato dalla porta, perché dire che l'uomo è così diverso dagli altri, però non si può parare, cioè questa diversità c'è, la base è comune, è ovvio, l'ha detto anche Marconi, abbiamo il 97-98% di DNA comune con quello dello scimpanzé, però questo 2% differente obiettivamente ci dà delle caratteristiche che lo scimpanzé non ha. Quali sono queste caratteristiche? Che tutta una serie di cose presenti anche negli altri mammiferi, e in particolare in modo molto più pronunciato nei primati, da noi è ulteriormente sviluppata. Allora, la cultura non è tipica degli esseri umani, perché nessun altro ha la cultura. Molte forme di vita, non soltanto mammiferi, anche per esempio molti insetti, in parte di insetti, meno pesci, eccetera, insomma, hanno dei comportamenti che embrionalmente possono essere definiti, diciamo, culturali. Ma questi comportamenti embrionalmente definibili culturali, cioè in cui c'è un certo grado di libertà per degli individui o dei gruppi rispetto a una determinazione biologica, a ciò che la biologia determina a fare, in tutti gli animali, compresi i primati, è abbastanza limitata. Nei primati è meno limitata che per i lupi, e nei lupi è meno limitata che nei castori, per dire. Però rispetto alla nostra è come dire, sempre limitata. Allora, tutte le specie animali hanno delle capacità, ma le capacità di tutte le specie animali, ivi compresi gli altri primati, sono non totalmente, ma in larga misura, determinate biologicamente. Più in là di una serie di comportamenti standardizzati che hanno poi certe un minimo di possibilità di essere diverso, ma diciamo, più in là di questo non vanno. Negli esseri umani questo termine, questa capacità è qualcosa che ovviamente ha una base biologica, certo, perché ma è un tipo di biologia quasi unico nel finora, per come si è verificato nella ed è successo casualmente, come tutti i meccanismi evolutivi. Non c'è stato nessun progetto, nessuno che ha detto facciamo questo essere intelligente, diamogli l'anima, tutte ovviamente, cioè, con tutto rispetto per il signor Ratzinger, sono tutte un po' palle, insomma. Cioè uno ci può chiedere, insomma, se vuole, ma non è materia su cui si possa discutere scientificamente o culturalmente in modo serio. Per una serie di motivi totalmente casuali, noi abbiamo sviluppato una capacità che eccede fortemente e qualitativamente la relazione stretta che c'è nelle altre animali tra la base biologica e un particolare comportamento. Quindi il succo è: l'insieme dei nostri comportamenti è il più vario possibile, il più differente, e quindi le lingue che noi parliamo sono, su una base comune, che è una capacità di linguaggio che è obiettivamente comune, sono le più varie. Ma questa capacità non è di per sé una struttura, non è di per sé un algoritmo, non è di per sé qualcosa di descrivibile, elencabile e quindi di, come dire, positivamente descrivibile. Non esistono valori comuni. Le culture, le varie culture, e l'unica volta, e noi stiamo assistendo, voi, io, stiamo assistendo da un paio di secoli a questo processo. Certo che c'è un particolare insieme di valori, di una particolare civiltà che si sta espandendo in tutto il mondo, certo, e sta a poco contaminando, cambiando, facendo pressioni, allargandosi. Ma tutto questo non c'ha alcuna base biologica, c'ha una base, una base economica, culturale, si chiama imperialismo e la cultura occidentale sta diventando la cultura unitaria del mondo, distruggendo lingue, culture diverse dalle sue. È la prima volta che capita nella storia del mondo, non c'era mai stata una forma culturale che avesse dentro i propri meccanismi di funzionamento il distruggere le altre. Il capitalismo è l'unica formazione economico-sociale che non può vivere, che non può stagnare. La stagnazione per il capitalismo è la morte, è una trottola il capitalismo, deve girare a velocità sempre maggiore, il capitale deve valorizzarsi con una velocità sempre maggiore, lo spazio è stato già mangiato, non esiste più nessuna pezzo della terra che non sia capitalistico oggi. Tra il 1989 e pochi anni dopo sono passati pochi anni per capire che quella che era sembrata un'alternativa per gran parte del Novecento, il cosiddetto sistema comunista dell'Unione Sovietica e degli Stati Satelliti, non era che un capitalismo di Stato travestito in altro modo, è stato il risultato di una grande rivoluzione, cazzo, non mi sogno bene di dire che non sia così, ma rapidissimamente, in pochi mesi, in meno di un anno, già dopo un anno Lenin, prima ancora di Stalin, Lenin l'aveva trasformato in quel, per cui non era nessuna alternativa reale, non c'è mai stata l'alternativa. L'alternativa reale al capitalismo sta dentro al capitalismo, non perché qualcuno fa una rivoluzione dall'altra parte, non poi viene usata male, non voglio dire, ma insomma, però c'è, è ovvio, è ovvio che c'è, sarebbe tragico se non fosse così, perché il fatto di morire tutti con una dentro, cioè il fatto di pensare eterna una società come la nostra, così animata e così evidentemente il capitalismo, da una pulsione di morte mai vista, non c'è mai stata una civiltà. C'è anche gli aztechi, le robe più crudeli, loro c'erano il sacrificio, spaccavano il cuore a uno, dopodiché chiuso, cioè quello lì c'era il capo espiatorio, ammazzavi una persona, gravissimo, voglio dire, non voglio dire che come dire, bisogna ammazzare le persone. Il capitalismo negli Stati Uniti nasce sulla base di una guerra civile fatta per liberiamo gli schiavi, che in realtà sapete bene per cosa l'ha fatta quella guerra, non ne poteva un cazzo degli schiavi ad Abramo Lincoln né agli industriali del nord, cioè gli che hanno finito la guerra, gli interessava avere una bella quantità di mano d'opera, cosa che infatti ebbero, perché ha abolito la schiavitù, i neri si trasferirono in massa e fu un esodo biblico dalla Louisiana, dalla Florida, dalla North Carolina, dalla South Carolina, dal Texas, era poco schiavismo, da quella parte lì verso il nord, verso Seattle, verso Chicago, verso la cosa, quello era. È la morte che c'è, cioè il capitalismo è la civiltà che genera più morte degli esseri umani, morte fisica, morte psichica, morte della differenza, annientamento delle differenze. Però cazzo, c'è una forza, è indubbio, con tutto il male che ne credo possiamo dire, finora si è comunque dimostrato il più forte e tanto il cappello, perché questo genere di cosa non c'è mai stata. Ma non c'è nessun meccanismo, non c'è nessuna natura umana dietro al capitalismo. Tutte le volte che qualcuno ha parlato della natura umana è stato semplicemente, sono stati i tratti particolari di una formazione economico-sociale, per non dire gli interessi particolari di una classe, che sono stati presi, nobilitati, elevati messi sull'altare, ecco a cosa serve l'universalismo. Messi sull'altare e dici, ma questa è la natura umana, è il capitalismo, è la natura umana, è la normale abilità umana. Questa cosa c'è negli siti di Adam Smith, c'è negli siti in tutto, in tutta la storia. Voi vedete questa operazione truffaldina e ideologica. I discorsi sulla natura umana sono per il 98%, come il nostro DNA coincide con quello del cimpanzé, così il 98% dei discorsi sulla natura umana sono ideologia, sono giustificazione di una cultura per i propri obiettivi egemonici. Questo è successo sempre, soltanto che la gran parte, la totalità delle culture precedenti, non aveva la totalità. Al massimo qualche cultura può aver avuto in qualche momento, e lo ha avuto, certo, l'impero persiano nei confronti dei greci. I greci hanno rintucciato questa cosa, sono passati poco più di 40 anni e in una delle città della Grecia, che aveva avuto grande parte nello sconfiggere i persiani, si fa luce una tentazione analoga. Atene, la guerra del Peloponneso di Atene contro Sparta scoppia perché ad Atene matura in un regime democratico una vocazione imperialista, matura la vocazione a sottomettere le altre città, perché noi siamo i più forti, noi più bravi, e in gran parte per ragioni culturali. Abbiamo la cultura, noi abbiamo il teatro migliore, il teatro è nato qua, la cosa è nata qua, ma la prima volta che abbiamo recitato Omero è stato qua, è tutto presente, è così, e poi vanno, leggete Tucidide, che è un libro meraviglioso. Quando vanno dai medi, glielo dicono pari pari, a me Tucidide la racconta così, gli dicono, ragazzi, ma voi se potete decidere, certo, potete anche disinvolgerci, ma non vi conviene disinvolgerci, noi siamo più forti di noi, quindi se voi dite di no, vi sterminiamo se non entrate nell'alleanza alle nostre condizioni. E questi fanno, dice no, ma è la dice giustizia, verità, e gli fanno la casa pippa dei valori della natura umana, e gli altri gli dicono, ma questa è tutta aria fritta, dice, noi siamo più forti di voi, se volete vi teniamo, vi tratteremo anche bene, sottinteso, cioè chiaramente non usano il termine schiavi, però noi saremo i padroni e voi sarete, se no va bene, dice, vi disseminiamo, abbiamo qua di fronte, vedo qua di fronte, mi sembra, ma che caso, c'è una cinquantina di trieni armate di tutto punto, ti vedete un po' se volete fare, cioè, così è la cosa, così era tutta questa. Quindi a me insomma mi dispiace per i cognitivisti, per tutti quanti, per i cattolici, per anche per i marxisti, perché il marxismo è stato universalista uguale nello stesso modo, non è che fossero, diciamo, migliori. Io sono stato tutto questo qua cattolico per pochissimo tempo, a 14 anni ho dato, però sono stato marxista, sono stato chomskiano, sono stato tutte le cose, ma cioè, poi a un certo punto poco a poco sono cresciuto anch'io, con un certo ritardo, confesso, pazienza, però prima o poi si arriva, si cresce, e adesso mi sono reso conto che bisogna abbandonare tutto, che è meglio che io, personalmente io sto meglio, per la mia salute civica è bene che io abbandoni tutte queste cose, e che riconosca che non vuol dire che tutti questi signori da Chomsky in giù sono tutti bravissime persone, loro non lo fanno per scattiveria, non lo fanno per sostenere il terreno americano, certo. Però al fondo l'effetto che questi ottengono è questo, è quello di, lo dico nel caso di Chomsky, che è una bravissima persona e ha una attività politica, è un anarchico, è uno che nella sua vita combatte, e sono contentissimo che lo faccia, contro per il pacifismo, contro tutte le cose cattive e brutte contro cui combatto anch'io. Però mi dispiace, dal punto di vista scientifico il suo lavoro, che lui ne sia consapevole o no, porta acqua a quella cosa, porta acqua a quella diciamo, come dire, concezione. Ed essere relativisti non vuol dire pensare che va tutto bene uguale, eccetera, perché credo che ognuno di noi sia in grado di decidere cosa vuole e che cosa non vuole, solo che non lo fa per ragioni, non lo fa per ragioni cognitive, perché cognitivamente, perché ontologicamente il nostro essere è migliore e la nostra testa è migliore, e bisogna, lo fa per ragioni etiche, perché la nostra etica ci dice, perché noi singolarmente consideriamo giuste o ingiuste certe cose. Io non mi sono mai mosso perché il socialismo sarebbe stato meglio del capitalismo, perché lo consideravo più giusto. Sbagliavo nel modo in cui lo pensavo, è una cosa che continuo a pensare ancora adesso, che ci vorrebbe, che vorrei costruire una struttura economica più giusta o meno ingiusta di quella come capitalista, ma ho abbandonato l'idea che dice Marx che ci sia una legge della storia che trasformerà, non c'è nessuna cazzo di legge di nessuna storia che trasformerà nulla purtroppo, e sarà soltanto se un numero sufficiente di persone, per ragioni pratiche, etiche, di scelta etica, è giusto, non è giusto, non è vero, è falso. È vero e falso, possiamo discutere all'infinito se è vero o falso. Se esista Dio, se non esista Dio, possiamo discutere all'infinito. Non esiste alcuna dimostrazione di Dio, diciamo della sua esistenza, come non esiste alcuna dimostrazione della sua non esistenza. È impossibile entrambe le cose. L'ateo non pretende, a meno che non sia stupido, di dimostrare che Dio non esiste. È indimostrabile che Dio non esiste, come è indimostrabile che Dio esista, ed è per questo che uno, in base al caso di Occam, dice sono ateo. Per credere all'esistenza di qualche cosa che siamo in dubbio se ci esista o no, mi sembra una cosa stupida, quindi non ci credo, basta, questa è la ragione. Però ti fa far credere, e da un punto di vista individuale, chi ci crede ha le stesse ragioni mie dal punto di vista, io un po' di più sul piano della logica, ma tutto quello che noi facciamo non è perché c'è una natura umana, perché siamo arrivati alla verità, perché c'è il vero e il falso. Quelle sono tutte costruzioni, diciamo, superfettazioni ideologiche, tutta ideologia davvero, e non c'è peggiore ideologia, voi lo sapete bene, di chi predica la fine e la morte delle ideologie, perché quelli che hanno predicato negli ultimi 40 anni la fine delle ideologie sono in realtà sostenitori della ideologia oggi maggioritaria del paese, del mondo, che è quella capitalistica, diciamo liberistica, diciamo liberista capitalista. Quindi queste non ci contino palle, perché queste sono le cose. Se noi ci muoviamo, però il relativismo quindi non è qualcosa che ti blocca, dice ah, fa tutto uguale, fa quello che vuoi, no. Uno si impegna, fa delle cose, fa delle scelte, come diceva, non totalmente, non del tutto, come dire, immotivate, come diceva Sartre, ma in base ad un imperativo etico che non è universale, come dice Kant, ma è particolare, alcune cose che non ci vanno bene, e sino a che saremo una minoranza, coloro ai quali queste cose non vanno bene, prenderemo atto, io prendo atto che finché sono una comunità minorante, però non mi potete chiedere di smettere di combattere per le cose per cui ho combattuto più o meno in maniera diversa per tutta la vita, perché ho avuto tante idee, ma su alcune robe di fondo non ho mai cambiato, insomma, cioè contro lo sfruttamento dell'uomo, contro, diciamo, l'ingiustizia, eccetera, continuerò a combattere anche se sono da solo, non me ne frega nulla, anche se so che non ci posso arrivare nell'immediato, anche se so che morirò capitalista e democristiano, pazienza, ma perlomeno che i miei figli non muoiano, basta, però no. avrei finito di dire. Posso solo una domanda? Sì, secondo lei come può succedere, come può avvenire lo scarto del tipo se, diciamo, l'unica proposta alternativa capitalistica, barra imperialistica, sì, adesso, potrebbe essere solo quella anarchico-libertaria. Io non ne vedo altro. Impotenza, però. No, anche io infatti, siccome è chiuso. Impotenza, come può una volta, diciamo, attuata, funzionare, se poi porta ancora a fare delle acqua al molino? Siamo qua fino alle 8, fino a tempo di tagliare. No, beh, non lo so. Io ho delle mie ipotesi, però nel senso che non lo so. No, penso veramente che siamo abbiamo già sforato parecchio, insomma, non reputo sufficientemente potente l'arma del, tra virgolette, non operare. No, certo che non sicuro. Non reputo sufficientemente potente per sconfiggere. Ma vuoi sapere come ci arriviamo? Puoi sapere com'è che ci si arriva, non come ci si decide dopo. Allora, come ci si arriva, credo di essere d'accordo con te, cioè non penso che Marx fosse probabilmente cattivo quando disse che la violenza è la levatrice della storia. È sempre stato così e non vedo. Sì, vabbè, c'è Gandhi, tutti ci dicono che c'è Gandhi, eccetera. Insomma, Gandhi è un caso su un tot. Tutti i rivolgimenti sociali, politici e sociali hanno avuto luogo con la violenza, non ci sono chiesti. Ma è sì, ma è una roba normale, insomma, non si capisce perché. D'altra parte, che i meccanismi elettorali di per sé siano impotenti mi sembra ovvio. I meccanismi elettorali sono manipolabilissimi, lo dimostra non solo la Birmania e l'Afghanistan, ma lo dimostra l'Italia negli ultimi 20 anni, quindi c'è più chiaro un paese, ma in qualche maniera tutti i paesi capitalisti borghesi sono così, c'è una manipolazione, cioè è il rischio della democrazia. Io continuo a pensare che siamo meglio in democrazia che non con altre cose, però non dobbiamo spacciare il votare come la roba fondamentale della democrazia. La mia prospettiva continua a essere quella dell'autogestione dei produttori, che oggi fa ridere, perché siamo tutti produttori, anche quelli che non lavorano, anche quelli disoccupati, contribuiscono tutti in un modo o nell'altro, cioè, quindi l'autogestione degli esseri umani, in quanto esseri umani abbiamo diritto ad autogestirci, ma per arrivarci è ovvio che ci vorrà. Quello a cui sono nettamente contrario è la violenza minoritaria e stupida di uno che va a mettere delle bombe quando non è collegato con delle cose, questo è ovvio, ma questo bisogna dire che è qualche anarchico pazzo c'è stato, non voglio dire, ma in gran parte sono tutte palle che si succedono, gli anarchici le bombe, anche questa misteriosa corrente anarco-insurrezionalista di cui parlano i media è qualcosa che non si sa se sia, ma dov'è? Chi sono? Dove stanno? Sono segreti? Sono gente che si nasconde così, ma dove cazzo sta? Cioè, è una cosa da morire, anarco-insurrezionalisti, e se parla, no, siccome gli hai dato l'etichetta, cioè, allora, quindi non lo so come ci si arriva. Devo dire, ho una relativa fiducia nel fatto che c'è un limite alla capacità di sopportazione. Allora, mentre il capitalismo classico, nella sua forma del capitalismo del welfare, il welfare era una roba capitalista, non era una roba socialista, era totalmente dentro capitalismo, però c'era un equilibrio tale per cui obiettivamente, effettivamente. Però come finì il capitalismo del welfare? Finì con la più grossa ondata di lotte operaie sui diritti furono 68, 77, 80. Questa ondata venne sconfitta, ragazzi. Io che parlo sono uno di quegli sconfitti. L'ho presa in quel posto, io come tutta la generazione. Gran parte della mia generazione ha ritenuto poi opportuno, dice va bene, mi risarcisco individualmente, quindi oggi sono dirigenti d'azienda, giornalisti, Mediaset berlusconiani comunque, insomma, politici di qualunque tendenza, destra, sinistra che sia. Io sono non so se sono molto lodevole, probabilmente sono una stupida eccezione, perché non ho fatto nulla di quelle cose lì, quindi per cui sono povero ancora adesso, però c'è questa sconfitta, c'è stata storicamente, è stata una sconfitta di proporzioni forse più grosse di quelle che noi stessi abbiamo abbiamo vissuta giorno per giorno, abbiamo vissuto, io mi sono vissuto i momenti alti, ho occupato le università, per mia fortuna non ho mai preso in mano una pistola, mi è andata di culo, però poteva succedere che erano tante le vie attraverso le quali si entrava nella lotta armata anche in quegli anni, no? Comunque a me non è successo, comunque ho fatto la cosa, mi sono divertito, mi sono entusiasmato, ho creduto una serie di cose obiettivamente stupide, cioè che avremmo fatto di lì a poco qualcosa chiamato rivoluzione, prendendo come il palazzo d'inverno, era una stupidaggine quella, però tutti eravamo convinti di quello. Il capitalismo di oggi, il capitalismo consolidista, in gran parte non è altro che una risposta elaborata nel corso degli anni 70 a quello che abbiamo fatto noi, a quello che ha fatto la mia generazione, quelle che oggi hanno 60 anni più o meno, un po' di più perché sono arrivato un po' più vecchiotto, sono 68, comunque più o meno sono di quella fascia di età. no, questo è per dire, bastano 20 anni, 30 anni per elaborare un lutto così, non lo so, è vero che il progresso tecnico accelera sempre di più. Alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, Bifo, io e vari altri ci illudemmo forse un po', non lo so, insomma, comunque leggemmo nella nascita di Internet e nella nascita di questi, di questa possibilità così strana di orizzontalità, di non verticalità, di non gerarchia dei rapporti, leggemmo un'opportunità nuova. Ci siamo illusi forse un po', certo, va bene, no, okay, va bene. Detta in questo modo qua, sì. Io continuo a pensare che siano, cioè se tu pensi, ho appena finito di scrivere la prefazione al libro di un mio ex allievo, di un allievo di Brera, che uscirà a breve sulla rivoluzione iraniana, perché lui è stato lì l'anno scorso, nel 2009, se tu pensi all'uso che, cioè, quella è una rivoluzione fatta con internet, gli sms, i telefonini, cioè con tutte le nuove tecnologie, diciamo, digitali. Quindi, e se non c'erano quelle sarebbe stato difficilissimo, perché questa qui, per esempio, in pratica facevano le manifestazioni senza nessuno strumento legale, senza nessun giornale, un cazzo di, non c'era niente, solo i loro cellulari e gli sms che si mandavano. Quindi è uno strumento potente, voglio dire, bene usato, cazzo, può dare delle cose. Bene usato è chi decide come. Chi decide, ho capito, certo, ma e poi tale terra toro, cioè i backbones sono comunque controllati dalle multinazionali, il giorno in cui l'USA decide che non abbiamo più internet, ci taglia internet, nel giorno in cui poniamo un'ipotesi, disgraziatissimo di parti, partito pseudo-nazista di disgrazia, venissero al potere e decidono già, facciamo. Se arrivasse, dico, sta Sarah Palin, non arriverà, ma allora il cumulo, l'abisso di ignoranza, di cattiveria, di stronzaggine che è quella donna è una cosa terribile. Bene, dice bene, io ok, tagliamo, ci avete rotto i coglioni, ci tagliano i cavi e per ricostruirli ce ne vuole, certo, l'Europa ha la forza di farlo per conto suo, ma dovrebbe ripartire da zero, quindi è ovvio che dietro c'è quello, ma diciamo, dato per scontato però che è difficile per qualunque paese ormai a questo punto dello sviluppo fare una scelta di quel tipo. Quindi, diciamo, supposto che nessuno faccia quella cosa, diciamo, l'orizzontalità della roba comunque rimane, insomma. Cioè il fatto che è uno, come dire, strumento in cui tu, è che è uno dei pochi strumenti, poi che sia stato usato anche da parte nostra malissimo, basta vedere l'esperienza di Indy Media, cioè poteva essere una roba enorme, uscita 10 anni fa, quando è stata, se la fu sprecata, giocata male, devo dire, veramente male. Quindi non lo so come, cioè non lo so, però non vedo altro modo che questo, quindi suppongo che a un certo punto qualcuno si romperà le scatole, ovviamente non sarò più, insomma, sarei voi, che avete forse anche gente più giovane di voi, insomma, se ci mettono ancora troppi anni per. E un po' di casino bisognerà farlo, suppongo, perché penso che difficilmente questa gente qua si farà da parte così, dice, ah sì, scusate, avete ragione, però cioè, tu sto disgraziato di puttaniere di Presidente del Consiglio che non se ne va neppure quando, dice, ma scusa, gli dico, tutti gli hanno detto ormai, cazzo, così, ragazzi, fatti da parte, pure nel suo partito, cioè, capito? Niente, no, non fa nulla. Va bene, vi lascio, ragazzi.